America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Although the economy continues to improve, the recovery is not yet complete. Janet Yellen, governatore, presidente del Consiglio Governatore della Federal Reserve, ieri in audizione al Senato, davanti alla Commissione Bancaria al Senato, ha fatto, devo dire, delle dichiarazioni piuttosto interessanti. La prima, questa che vi ho fatto ascoltare sull'economia, in sostanza la Yellen dice, la ripresa non è ancora al suo pieno potenziale, l'occupazione secondo noi è ancora fragile, certo terremo tutto sotto controllo, nel caso ci fossero dei rimbalzi improvvisi, in quel caso potremmo intervenire, ma altrimenti terremo sotto controllo l'andamento dell'economia. Cosa vuol dire, tradotto in parole semplici? Che i tassi di interesse a breve, a meno che non ci siano dei drastici miglioramenti dell'andamento economico americano, resteranno bassi, sui livelli vicino allo zero, almeno fino alla prima metà del 2015. La Yellen ha anche avvertito che ci sono dei comparti che potrebbero essere sopravvalutati: comparto biotecnologico, il comparto digitale, quindi l'economia legata a internet in generale, e le small cap, cioè quelle aziende a bassissima capitalizzazione che valgono molto poco sul mercato, su cui c'è una forte speculazione, e le conseguenze sono state immediate. Pensate, il Russell, che rappresenta l'andamento delle small cap, ha perso l'1%, il Nasdaq legato a digitali e biotech lo 0,54%, il Dow Jones è rimasto abbastanza stabile. Ma separiamo questi due messaggi, perché da una parte la Yellen rassicura sulla tenuta dei tassi a meno che occupazione non migliori o inflazione non peggiori drasticamente, e dall'altra così prudenza su alcuni comparti dell'economia. Questo ci consente di parlare un pochino dell'economia americana, delle sue prospettive, di cosa ha voluto davvero dire la Yellen, e perché ho con me i microfoni di America 24 Allen Sinai, presidente e capo economista di Decision Economics, uno dei più importanti centri studi privati economici in America. Buongiorno Allen. Buongiorno. Let's talk about Yellen. Parliamo della Yellen. What do you get out of her testimony? Chair Yellen told us the Federal Reserve at this time is in no hurry to raise interest rates. La Yellen ha detto che ci saranno elementi di occupazione e di inflazione che dovranno essere tenuti sotto controllo. Ma l'opinione comune è che se ci sarà l'aumento dei tassi, comunque non avverrà prima della seconda metà del 2015. What happens if employment goes to 5.5% at the end of the year? Cosa succede se l'occupazione, il tasso di occupazione, che è già al 6.1, che doveva essere alla fine dell'anno, scende al 5.5% per la fine dell'anno? Il fatto che il tasso di disoccupazione sia al 6,1% o magari per la fine dell'anno al 5,5 o al 5,7 non cambierà necessariamente l'atteggiamento della Fed, perché la Fed in realtà ha cambiato la sua interpretazione del tasso di disoccupazione includendo altri elementi statistici, per esempio considerando chi oggi lavora part-time e che invece vorrebbe lavorare a tempo pieno, oppure dando un peso specifico maggiore a coloro che sono fuori dalla forza lavoro da moltissimo tempo. Vorrei chiedere a questo punto ad Allen Sinai, appunto, come giudica il fatto che la percentuale di forza lavoro americana lavora è al 62,3%. La Yellen in effetti nella sua audizione di ieri ha parlato di un rafforzamento dell'economia, del fatto che le cose possano migliorare, del fatto che ci sia un'inflazione un po' più alta. Però questi due elementi restano comunque non determinanti, anche se l'inflazione più che l'occupazione, proprio per queste variazioni che ci sono state, giocherà un ruolo più importante. Quel messaggio specifico della Yellen c'è stato perché a settembre ci saranno le nuove previsioni di crescita e dei dati economici da parte della Fed, e lei non può cambiare i dati nel frattempo. Però siccome un piccolo cambiamento c'è stato, ha voluto dare un messaggio che forse qualche cosa cambierà nelle previsioni economiche. Questo messaggio è stato confuso come un avvertimento che forse i tassi ne avrebbero potuto in qualche modo risentire. Io non credo. Penso che i tassi resteranno bassi almeno fino alla seconda metà del 2015. And what about the economy? Cosa succede con l'economia? Abbiamo visto un primo trimestre in contrazione. Cosa succede? Cosa si dice a quelli che hanno paura che l'economia vada, si indebolisca molto? I think those people who watch real GDP in the U.S. Non bisogna preoccuparsi troppo del dato sul PIL, del dato complessivo, perché potrebbe essere fuorviante. Quello che conta di più sono i singoli dati mensili, e questi singoli dati mensili suggeriscono un'economia più forte di quello che può sembrare a giudicare dal dato molto negativo del primo trimestre, che ha riportato una contrazione del PIL del 2,9%. Ma io domando a Sainai, ma non è forse vero che il GDP è una sommatoria di tutti i dati mensili, e dunque perché dovremmo essere meno preoccupati? È vero che tutte queste componenti fanno parte del PIL, ma il PIL è una media, non è un dato reale che corrisponde a un particolare indicatore. Per esempio, prendiamo le spese del governo. Le spese federali rappresentano il 6,7% del PIL e complessivamente, se sommiamo anche quelle statali e comunali, arriviamo al 17% del PIL. Se queste spese diminuiscono, e potrebbe anche essere un bene per l'economia e per il settore privato, ecco che la media del PIL diminuisce, perché diminuisce questa voce di spesa. Le voci percentualmente più importanti che contribuiscono a determinare il valore totale del PIL sono la spesa al consumo, che ha infatti recuperato e rappresenta il 68%, la spesa per gli investimenti, che rappresenta il 14% dell'economia, e quella per il settore immobiliare, che è al 3%. Dunque sono queste tre le voci davvero importanti da tenere sotto controllo, e queste stanno andando bene. Qual è la sua previsione, Allen, per il resto del 2014? Per il 2014 le previsioni sono positive, ci sarà un aumento del 3-4%, per i restanti trimestri l'occupazione andrà bene con 200-250.000 nuovi occupati al mese, un tasso di disoccupazione stimato intorno al 5,7% entro fine anno. La borsa andrà bene, i profitti aziendali aumenteranno tra l'8 e il 10%. Ci sarà forse una correzione a un certo punto, ma il quadro resta positivo per un'economia che si trova nel suo sesto anno di ripresa economica. E voglio chiedere però ad Allen Sainai, che cosa succederà poi quando questi tassi aumenteranno? Ci dovrà essere un atterraggio morbido? Qualcuno è preoccupato per il settore immobiliare? C'è il rischio che quando questi tassi a breve aumenteranno il settore immobiliare, per esempio, andrà male, ci saranno conseguenze negative per l'economia? Certo, ci sarà un impatto dall'aumento dei tassi di interesse, però riguarderà soprattutto il settore immobiliare e le esportazioni, che risentiranno del rafforzamento del dollaro. Ci sarà invece un impatto molto minore su altri settori trainanti dell'economia, cioè sui settori degli investimenti, che insieme rappresentano oltre l'80% dell'economia. Dunque le probabilità di un crash landing sono molto basse, perché le diminuzioni in settori sensibili saranno compensate da un buon andamento dell'economia. Sono più preoccupato per la borsa. Secondo me ci sarà quasi sicuramente una correzione fra i 3 e i 6 mesi, una correzione che potrebbe essere tra il 10 e il 15%. Per il resto, l'economia americana nel suo sesto anno di espansione continuerà a crescere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica, che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su America24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di economia americana, della Yellen, che così rimanda l'aumento dei tassi di interesse, però un aumento che prima o poi, come abbiamo visto chiacchierando con Allen Sainai, ci sarà. E dunque, per restare in tema, vi propongo dei Pearl Jam, Rise. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.